Le annunciate dimissioni di Berlusconi non convincono i mercati, il rendimento del BTP sfonda il 7%, lo spread con i Bund sale e Piazza Affari va impicchiata. Il presidente Napolitano: è imperativo recuperare credibilità, Berlusconi lancia Alfano ma non si esclude dalla lizza. Maltempo, Genova tira il fiato, la Sicilia invece entra nell'occhio della perturbazione. Sul Monte Bianco, morti gli alpinisti francesi dispersi. Buongiorno dalla redazione, da Laura Bettini. Quindi Piazza Affari continua in territorio negativo, risente dei timori innescati dai titoli di Stato. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi continua infatti a salire, il rendimento è andato oltre il 7%, il FTSE MIB in questo momento segna un calo di oltre il 4%. Deborah Rosciani, facciamo il punto di questa giornata terribile. Un brutto punto della situazione, devo aggiornare ulteriormente il record toccati sia dallo spread che dal rendimento del titolo decennale, perché poco fa sul mercato secondario il BTP con scadenza a 10 anni ha toccato il 7,43%, quindi non solo ha scavalcato il 7% ma sta andando ben oltre. Il differenziale con il titolo decennale tedesco, con il Bund, è salito a 575 punti base. Questa è la reazione del mercato obbligazionario alle novità politiche delle ultime ore, un mercato dei titoli di Stato italiani che è praticamente fermo, non ci sono più prezzi, raccontano i trader, sulla parte breve né su quella lunga della curva, un impasse dovuta alla mancanza di incontro tra domanda ed offerta. Prima del titolo decennale, a superare la soglia del 7% come rendimento ci avevano pensato anche i titoli a più breve scadenza, sia quello a 5 anni che alle 10:15 ha sfondato appunto il 7%, un quarto d'ora dopo il rendimento del BTP a 2 anni ha superato questa soglia. Si è verificata quella che gli analisti e i gestori appunto del settore chiamano l'inversione della curva del credito. La borsa fa meno 4,27% adesso sulle FTSE MIB. Milano trascina con sé anche le altre piazze europee, che perdono però molto meno, meno 2,5 punti su Parigi, Francoforte meno 2,77, Londra in calo del 2,10%. I titoli che scendono di più, per usare un eufemismo, l'automatica meno 12, Mediaset meno 10%, in calo vistosissimo, oltre 6 punti di ribasso per tutte le banche, non si salva nessun titolo, Campari è quello che perde meno 0,8, con Pirelli meno 0,8 che sta presentando a Londra il suo business plan. Quindi una giornata nera sui mercati, ti restituisco con queste notizie, Laura, la linea. Grazie Deborah Rosciani, purtroppo oggi continui aggiornamenti in negativo dalla nostra collega. Insomma, le annunciate dimissioni del Premier non hanno cambiato le carte in tavola, anzi, perché? Che cosa è successo? Lo chiediamo a lei, Fabrizio Fiorini, buongiorno. Buongiorno a voi. Responsabile investimenti Aletti Gestielle SGR. Allora, perché il mercato non si è accontentato? Innanzitutto non si è accontentato perché non è tempo di promesse. Promettere di dimettersi dopo l'approvazione della legge, il mercato questo non lo può accettare, perché purtroppo questa situazione, quella che ci ha portato sin qui, la mancanza di credibilità nel fare riforme, nel consegnare all'Europa quello che l'Europa voleva, ci ha portato sin qui, e anche posticipare di 15 giorni le eventuali soluzioni o addirittura parlare di nuove elezioni, che vorrebbe dire un'altra impasse per altro tempo, non è assolutamente accettabile. Quindi quello che manca è una scaletta più precisa, insomma, non dire faremo, ma domani facciamo, oggi facciamo. Allora, sicuramente, esatto, questo è il primo punto, io non sono più credibile e quindi io mi devo fare da parte, questo è il primo punto. Poi dopo il secondo punto è che cosa può offrire l'Italia in cambio, no, all'Europa, perché qui si tratta di una fuga praticamente di capitali dall'Italia, no? O meglio, chi aveva investito in Italia non ci crede più e quindi sta liquidando, non è che stanno portando via, qualcuno aveva investito e sta uscendo. Ad aggravare la cosa, questa mattina una notizia della London Clearing House che dice sui titoli italiani dati per il mercato dei pronti contro termine, io voglio un premio prudenziale non più di 5 ma di 11%, il che vuol dire che chi ha dato questi titoli si trova ad avere meno liquidità in cambio di questi titoli, e questo sicuramente è estremamente negativo e questo genera flussi di vendita sull'Italia. Ma quello quindi che non è solo più una crisi. credibilità politica, ma anche una credibilità a questo punto su altri piani. Diciamo che questa è in realtà la conseguenza di tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Qui non è una situazione nuova di cui la responsabilità è nuova, è una situazione vecchia. Io un esempio che potrei fare è come se qualcuno lasciasse aperto il rubinetto dell'acqua in una stanza e uscisse, e l'acqua uscisse dalla stanza una settimana dopo. La colpa è di chi ha aperto il rubinetto una settimana prima, e qui chi ha permesso ai rendimenti italiani di arrivare a questi livelli ha generato come conseguenza ultima il fatto che questa clearing house chieda non più un taglio del 5 ma dell'11%, con conseguenze sui titoli di Stato. È la stessa cosa che i rendimenti in salita hanno generato paure sulle agenzie di rating, le quali hanno declassato l'Italia, e il declassamento ha automaticamente, diciamo, certo, confermato il fatto che i rendimenti erano giusti lì, no? È un circolo vizioso che occorre interrompere, e per interromperlo occorre una grandissima credibilità. La credibilità non è sul mi dimetterò, e non è sul faremo le elezioni e vedremo, certo, è sul facciamo adesso, e questo facciamo serve adesso. Io la ringrazio molto, Fabrizio Fiorini, responsabile investimenti Aletti Gestielle SGR. Credibilità è una parola che ripetiamo continuamente in questo giornale radio, una parola che ha utilizzato anche oggi il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Vincenzo Miglietta, sei in collegamento con noi da Roma, buongiorno. Buongiorno. La situazione dei mercati, l'accelerazione della crisi politica, sono queste ore difficili e delicate, dice il Presidente della Repubblica. Dobbiamo riguadagnare credibilità e fiducia come paese, aggiunge Napolitano, così da uscire innanzitutto oggi da una stretta molto pericolosa sui titoli del nostro debito pubblico nei mercati finanziari e sulle condizioni dei nostri istituti di credito, con prevedibili ricadute sull'attività economica e sull'occupazione. Per affrontare la crisi, dice quindi il capo dello Stato, servono nuovi comportamenti nelle istituzioni e da parte delle forze politiche per trarci fuori dalla condizione critica e allarmante, spiega ancora il Presidente della Repubblica. Occorre che cadano troppe chiusure e vecchi tabù, che si crei un clima di confronto più aperto e ancorato ai problemi reali della società e dello Stato e alle loro possibili soluzioni. Abbiamo bisogno di decisioni presto, ribadisce quindi il Colle, per esprimere una rinnovata responsabilità e coesione nazionale. Quanto alle prossime ore e ai prossimi giorni, dal Quirinale fanno sapere intanto che Napolitano vigilerà al massimo sull'evolversi della situazione, ribadendo tuttavia che l'ultima parola spetta proprio al Presidente della Repubblica, sarà lui a decidere sul ritorno alle urne o su un nuovo esecutivo. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Milletta. E sempre da Roma c'è con noi Elisabetta Fiorito, proprio a proposito delle prossime ore del nostro governo. Elisabetta. Sì, Silvio Berlusconi conferma che si dimetterà quando il maxiemendamento sulla stabilità sarà stato approvato e farà quello che il PDL gli chiede. Intanto il Premier lancia la candidatura del segretario PDL Angelino Alfano, mentre assicura che non metterà la fiducia sulle misure europee. Ma per Berlusconi la strada dopo le sue dimissioni è solo una, sentiamo il Premier. Dopo le mie dimissioni si aprirà la fase delle consultazioni e sono sicuro, anche se questo naturalmente rientra nelle responsabilità del Capo dello Stato, che non si andrà alla formazione di nessun altro governo diverso dal nostro e che si tornerà alle urne. Da parte dell'opposizione c'è grande preoccupazione per il picco dello spread espresso nell'incontro tra Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini, che hanno concordato la necessità di accelerare i vari provvedimenti economici per far dimettere il premier Silvio Berlusconi. E Casini dice che bisogna accelerare il via libera a tutti questi provvedimenti. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie a Elisabetta Fiorito per le ultime novità da Roma. Maggioranza, opposizione, intanto comunque c'è da lavorare. Oggi comincia la missione che deve monitorare i progressi italiani, quella dell'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio cosa contiene la lettera inviata dal commissario Olli Rehn al ministro dell'economia Tremonti il 4 novembre scorso, e una lettera sulla quale oggi si andrà, da oggi in poi si andrà a insistere punto per punto. 39 domande in 5 pagine alle quali entro venerdì il governo italiano dovrà rispondere in inglese. Dalle infrastrutture alla scuola, dalla semplificazione della pubblica amministrazione alle pensioni. Su questo capitolo viene chiesto come si intende accelerare il processo di riforma dell'età pensionabile e si chiede tra l'altro se il governo intende abolire in via definitiva quelle di anzianità. La Commissione europea vuole anche sapere come si articolerà il programma di ristrutturazione delle scuole annunciato dall'esecutivo, come si valorizzerà il ruolo dei docenti e come migliorerà la competitività delle università. In merito al problema disoccupazione, si chiede come il governo intende creare lavoro per i giovani e le donne e come funzioneranno le agevolazioni alle imprese. Una parte significativa della lettera di Berlusconi ai vertici europei del 26 ottobre scorso era riservata alla semplificazione legislativa ed amministrativa. A questo proposito, la Commissione vuole sapere come si intende procedere e come peraltro si procederà anche per migliorare l'efficienza della giustizia civile. Questi dunque alcuni dei punti su cui si sofferma la lettera inviata a Tremonti, nella quale peraltro si sottolinea anche con forza che la strategia italiana non assicurerà il pareggio di bilancio nel 2013. Saranno dunque necessarie misure aggiuntive. Il governo sta già procedendo ad approntarle, ci si chiede, e se sì, quali sono? E da oggi in Italia parte la missione delle autorità comunitarie con il compito di verificare con mano l'adozione delle misure promesse. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13 e 15 minuti, di cosa abbiamo parlato nella prima parte di questo GR? Crolla la borsa, il presidente della Repubblica Napolitano dice bisogna decidere subito. Intanto il premier Berlusconi sulla sua candidatura non commenta direttamente, rilancia su Alfano, ma poi dice sceglierà il PDL. Intanto l'Europa comincia a lavorare sul dossier Italia. In questa seconda parte del notiziario, come vi avevamo detto, ci occupiamo di maltempo, perché dopo giorni di pioggia ininterrotta a Genova è finalmente cessato lo stato di allerta meteo, mentre centinaia di volontari lavorano per liberare la città dal fango. Oggi si sono celebrati i funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle vittime dell'esondazione del Rio Ferreggiano, che ieri ha tenuto di nuovo con il fiato sospeso i residenti della zona. È stato tolto dopo 5 giorni consecutivi l'allerta maltempo su tutta la Liguria. A comunicarlo è stata la sala operativa della Protezione Civile della Regione. Questa mattina ci sono stati i funerali di Serena Costa e Emilia Pietranera, due delle 6 vittime dell'alluvione di venerdì scorso. Resterà attiva l'unità di crisi e intanto riaprono le scuole. I ragazzi che hanno spalato il fango nelle strade tornano a scuola e, come dicono in molti, si sente la loro mancanza. Quello che è accaduto in questi giorni, e non solo a Genova ma in tutte le zone alluvionate, è il segno che c'è una generazione di giovani attiva, partecipe, che, come ci racconta Marco Cugè, presidente di Associvile, andrebbe formata per partecipare anche fuori dall'emergenza al mantenimento del territorio. Ora ovviamente l'appello è quello di pensarci per tempo, di attivarsi per cercare una sua collocazione all'interno delle strutture che ci sono. Parlo di strutture e di volontariato naturalmente. Perché di fatto c'è da dire anche questo, che se ci si organizza si possono pulire i boschi, forse si possono segnalare con più forza eventuali situazioni di difficoltà, certo, dell'ambiente stesso. È evidente, quando non si verificano eventi di calamità abbiamo la possibilità di operare nel settore della prevenzione, nel settore dell'antincendio, nel settore del meteo idrologico, e quindi verifica di situazioni a rischio, pulizia di sentieri, pulizia di boschi, eccetera. È chiaro che per fare questo occorre tanta manodopera, occorrono tanti volontari. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel ponente ligure però la situazione è ancora difficile. Nella notte appena trascorsa, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, 2 frane si sono abbattute sull'Aurelia, una tra Albisola e Savona e l'altra tra Celle Ligure e Barazze. La piena del Po invece sta attraversando il Parmense e, secondo i sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile, non ci sono particolari situazioni di criticità. Il maltempo invece è piuttosto al sud in questa giornata. Un violento nubifragio si è abbattuto su Messina e provincia, causando problemi soprattutto nella zona ionica del Messinese, a Gaggi e Letoianni, dove le strade sono allagate e ci sono state anche delle frane. È anche esondato il torrente Letoianni e fango e detriti sono stati trasportati in strada, bloccando la circolazione delle auto. A Messina il comune ha chiesto alle scuole di non far uscire i ragazzi per precauzione. Sentiamo Antonio Ruggeri, capo di gabinetto del sindaco di Messina, al microfono di Maria Piera Ceci. Di stare tranquilli, di stare a casa, possibilmente di uscire il meno possibile nell'estate quando c'è tutta questa pioggia, perché le strade devono essere libere, pure per eventuali mezzi di soccorso, e non ha significato uscire tutti quanti per strada e poi essere bloccati. E di non andare a prendere i ragazzi a scuola? Sì, un attimino, i ragazzi per ora ecco, sono là tranquilli, le scuole sono luoghi sicuri, sono controllati, fino a quando ecco di stare tranquilli, non, è una precauzione in più che abbiamo preso, sa, tutto quello che si sta verificando in Italia in questi momenti, ma è giusto che stiamo attenti, allerti in questa situazione. Nelle zone alluvionate, come è noto, lo sciopero non è in vigore, ma nel resto d'Italia a quanto pare la protesta dei benzinai ha invece molto seguito. Dopo l'incontro col governo, alcune sigle hanno sospeso la protesta, ma non tutte, e secondo FAIB, Confesercenti e Fegica CISL, alle 10.30 di questa mattina risulta infatti un'adesione pari all'88%, con punte ben superiori al 90% fatte registrare in alcune grandi città italiane come Milano, Roma, Bologna, Bari, Napoli e Palermo. Martino Landi, presidente di FAIB Confesercenti, al microfono di Anna Marino. Questi dati dimostrano il fatto che le ragioni per cui abbiamo confermato le due giornate di agitazione sono state recepite dalla categoria, quindi questo è un dato che a noi ci conforta molto, perché segna la difficoltà che i gestori stanno incontrando, perché confermare un'ulteriore promessa del governo con il protocollo di ieri sarebbe stato un'ulteriore ripetizione degli impegni non mantenuti. Se il governo vuol concederci il bonus, lo può fare perché l'impegno già c'era stato con 3 protocolli firmati negli ultimi 2 anni. Alcune associazioni hanno sospeso lo sciopero. I numeri, guardi, sono al netto delle pompe bianche, al netto delle gestioni precettate. Questo segnala un fatto che c'è grande fermento nella categoria e quindi la credibilità verso anche questo governo. E siamo tornati ancora sul tema credibilità. Intanto giunge dalle agenzie, nuove notizie giungono sul maxi emendamento del governo alla legge di stabilità. È atteso in commissione bilancio del Senato per le 16, quindi ancora un ulteriore rinvio. La prevista discussione era alle 10.30, così dicono i senatori dell'opposizione, poiché il ministro Tremonti attualmente è dal presidente Napolitano, la partita si gioca lì e quindi il rinvio alle 16. E andiamo adesso al nostro appuntamento con Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Oltre un italiano su 2 non usa le carte di credito. Strano, perché l'utilizzo è più comodo del contante. La verità è che l'Italia è il primo paese per reddito imponibile evaso e per questo l'utilizzo di cash per i pagamenti è la soluzione migliore, quella che non lascia tracce per il fisco. Di sicuro l'uso del contante contribuisce in misura decisiva a creare quel sommerso che incide sul prodotto interno lordo per oltre il 17%. Quanto pagare con carta di credito sia poco diffuso lo dimostra un esperimento portato avanti da Mastercard Europe, che ha fornito una carta prepagata del valore di 500 euro a dei giovani. L'impegno era di pagare tutto, ma proprio tutto, con moneta elettronica. Eppure non ce l'hanno fatta. Buongiorno, senta, avrei bisogno di sigarette, ma posso pagare col bancomat? Neanche 2 pacchetti? Niente. Ah, ho capito. Grazie lo stesso. Gli esercenti, buona infatti, giornata. Tendono a non accettarle, anche per le commissioni che devono pagare, un ostacolo che in futuro dovrebbe essere superato se passa l'emendamento alla legge di sviluppo che prevede nessuna spesa per l'uso di bancomat e carta di credito sotto i 100 euro. A quel punto si potrebbe dire addio al contante anche per pagare il caffè al bar, facendo pagare le tasse all'esercente, scontrino o non scontrino. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo ora all'estero. Dopo giorni di attese e indiscrezioni sui contenuti del rapporto, ieri sera è emerso infine che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è in possesso di informazioni credibili che indicano che l'Iran ha condotto attività rilevanti per lo sviluppo di dispositivi esplosivi nucleari, testuali parole, e nutre serie preoccupazioni riguardo le possibili dimensioni militari del suo programma nucleare. Un rapporto squilibrato, non professionale e politicamente motivato, ha subito detto l'inviato di Teheran alla AIEA. Con noi c'è in diretta Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Sono le solite schermaglie, c'è di più dietro, quanto temere l'Iran? Insomma, queste sono, penso, le considerazioni e domande che molti ti vorrebbero rivolgere in questo momento. Beh, devo dire che questa notizia del rapporto della IEA non è stato veramente un grandissimo scoop. In fondo, che gli iraniani stessero conducendo degli esperimenti militari quanto quelli civili ormai era ben noto a tutti, era un fatto quasi acclarato. Bisogna capire le dimensioni. Tra l'altro questo rapporto, come al solito, è sempre un po' ambiguo, il condizionale è usato abbondantemente in ogni frase, ma al di là di questo è evidente che l'Iran stava effettuando esperimenti nucleari, anche per le dimensioni di questo programma cosiddetto civile, per i numerosi luoghi in cui veniva condotto e per il fatto che quando sono iniziate le indagini della IEA nel 2002 furono iniziate proprio perché era stato scoperto un luogo segreto a Natanz dove loro non avevano dichiarato alla IEA che stavano conducendo esperimenti nucleari, quindi era abbastanza ovvio che lo facessero. Bisogna vedere quali saranno le conseguenze. Adesso però la cosa importante è che quali saranno gli effetti di questo rapporto. Esattamente. Bene. Le conseguenze, quello che dicevi tu, e gli effetti, il timore anche di fronte a questo rapporto, forse, di qualcuno? Ma vediamo innanzitutto, chiaramente Israele aveva già cominciato a battere la gran cassa la settimana scorsa quando erano uscite le prime indiscrezioni, che peraltro erano abbastanza note, il Washington Post aveva praticamente anticipato quasi tutto ed è chiaro che la fonte delle informazioni della IEA era quella americana, no? E Israele ha minacciato, ho ventilato la possibilità di un attacco aereo preventivo, peraltro smentito dallo stesso ministro della difesa Ehud Barak ieri. La realtà è che anche Israele fa pressioni per ulteriori sanzioni nei confronti dell'Iran. Quali saranno queste sanzioni? Qualcuno auspica che sia messa sotto controllo la banca centrale iraniana, le operazioni della banca centrale iraniana, qualcun altro sta ventilando addirittura l'ipotesi di un embargo petrolifero, ma anche questa appare un'ipotesi per il momento abbastanza remota. Insomma, si comincerà a discutere e poi si vedrà se verrà presa qualche risoluzione nell'ambito delle Nazioni Unite, certo. Dove però c'è l'opposizione della Russia e della Cina. Grazie Alberto Negri, andiamo rapidamente agli aggiornamenti dal Monte Bianco, dove purtroppo sono stati trovati senza vita i due alpinisti dispersi ormai da una settimana. Sono morti i due alpinisti francesi Olivier Sursac e Charlot de Metz, dispersi da mercoledì scorso sulle Grand Jorass. Lo ha detto il medico del 118 di Aosta, Andrea Ortu, dopo una prima ispezione sui corpi dei due alpinisti fatta sul luogo del ritrovamento. E la conferma ufficiale è arrivata anche dalla Francia. I due corpi, che saranno recuperati per competenza dai soccorritori italiani, verranno trasferiti nella camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Olivier Sursac, 47 anni, guida alpina francese di Chamonix, e la sua cliente Charlotte de Metz, esperta escursionista di 44 anni, residente a Fontainebleau vicino a Parigi, erano rimasti bloccati mercoledì scorso sulle Grand Jorass, nella parte settentrionale italiana del Monte Bianco, a 4.050 metri di quota, dove una bufera li ha costretti a ripararsi in una buca nella neve mentre stavano scendendo sulla cresta orientale. I due alpinisti sono stati individuati grazie al giaccone rosso di uno dei due, oggi, poco dopo le 11.30, dai soccorritori francesi, a bordo di uno speciale elicottero proveniente da Lione, dotato di una telecamera termica. A Courmayeur c'era anche il fratello di Sursac, Bruno, lui stesso guida alpina, che con alcuni amici nei giorni scorsi aveva organizzato diverse spedizioni a piedi per cercare di raggiungere i due dispersi, senza però riuscire nell'intento. Le Alpi, in particolare il massiccio del Monte Bianco, sono state teatro di salvataggi estremi nell'ultimo decennio e c'era ancora qualche speranza di ritrovare vivi i due alpinisti. Ma non questa volta. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Giusto pochi secondi per dirvi, è ufficiale, Davide Ballardini è il nuovo tecnico del Cagliari, è il terzo di questa stagione, verrà presentato alla stampa nel pomeriggio. È tutto, dicevamo, per questa edizione. Da Laura Bettini, grazie per l'ascolto. Appuntamento per la prossima edizione alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.